perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Allora, buongiorno Mauro. Buongiorno Deborah. E dobbiamo tornare anche su questa vicenda, non c'è niente da fare. Una nuova puntata che non scriviamo noi, la scrive un'autorità molto importante e però correttamente anche noi dobbiamo fare il nostro dovere. Esatto, come promesso nella puntata di ieri, oggi parliamo dei diamanti. Devo dire, Deborah, scorrendo un po' le cose che abbiamo preparato per questa puntata, mi veniva da pensare che sarebbe stata bene pure il Serpente Corallo, il programma che abbiamo fatto quest'estate insieme ai colleghi Stefano Elli e Marco Loconte sulle, diciamo, le truffe, i raggiri, gli inconvenienti vicende finanziari. Un po' opache, inconvenienti finanziari, chiamiamole così. Perché sai, qua la vicenda si può definire in vario modo, di fatto c'è una distribuzione di diamanti presso il pubblico distinto da parte delle banche, per cui sulla carta, come dire, le persone si sentono sicure. Peraltro una grande banca di quelle coinvolte nella vicenda si è anche un po' sentita non dico offesa, ma insomma guardato con grande perplessità alla misura dell'antitrust presa proprio nei giorni scorsi, perché noi da qui che partiamo, perché loro hanno detto, questa grande banca italiana, a noi li chiedevano i clienti e per cui abbiamo trovato in qualche maniera un grande operatore sul mercato che ci consentisse di accontentarli, e quindi anche per noi in realtà questa vicenda ha preso una piega spiacevole. Allora, ma partiamo dalla cronaca, l'ultima notizia qual è? L'ultima notizia è che l'antitrust ha l'autorità garante del mercato, sì, ha irrogato una multa molto pesante, perché parliamo di 15 milioni 35 di euro, 15 milioni e 350 mila euro. Ecco. una cifretta mica da ridere a due società che appunto trattano diamanti. Dopo le pronunciamo bene, perché ce ne sono altre che fanno altro, che si chiamano in una maniera simile, che poi si offendono, poi ci chiamano e ce ne dicono di tutti i colori. Pronunciale correttamente ora. Vado Deborah, io. Prendete allora, carta e penna. Esatto, la prima società è Intermarket Diamond Business IDB, la seconda è Diamond Private Investment DPIOE. Ecco, allora, a queste due società, nonché a diverse banche, l'antitrust ha irrogato questa multa perché il meccanismo di cessione di questi diamanti e le loro quotazioni erano opachi e non trasparenti. Ora, noi abbiamo invitato qui in studio il collega Nicola Borzi, il quale, come dire, sorride amaro, in qualche modo, amaro soprattutto nei confronti di quegli investitori che hanno scelto di investire in diamanti, perché da tempo, mi verrebbe da dire da anni, Nicola, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Da anni, giusto, su dal Plus. Dal 22 novembre del 2014. Ecco, dal 2014, ricorrono quasi in questi giorni, proprio 3 anni da che Plus ha cominciato a dire che forse nel sistema di quotazione dei diamanti e nella loro cessione agli investitori non tutto era così chiaro. Esatto, e il problema qual è? Perché è scoppiato questo caso alla ribalta della cronaca? Perché proprio sulla scia delle quotazioni in crescita, molti sottoscrittori di questi prodotti di investimento hanno deciso ad un certo punto, complice la crisi finanziaria, complice iniziative del tutto personali all'interno del nucleo familiare, volevano disinvestire. Ho guadagnato tanto, vado in banca, li rivendo, mi riporto a casa quello che ho guadagnato. Il punto è lì, cioè diciamo che il nodo è venuto al pettine proprio in questo frangente. Le banche non rivendono, non ricomprano. Il problema è che non si possono chiamare, come dice giustamente l'autorità antitrust nella sua doppia relazione, quotazioni dei diamanti, perché queste non sono delle rilevazioni di un mercato dove i prezzi si formano grazie agli scambi tra domanda e offerta. Questi, come abbiamo scritto su Plus 24, ripeto ancora, dal 22 novembre 2014, 2 anni prima delle puntate di Report, sono listini autoprodotti di queste due società che non hanno niente a che spartire con le rilevazioni fatte dai due principali rapporti mondiali sui prezzi dei diamanti, cioè Rapaport per i diamanti all'ingrosso e IDEX per i diamanti al dettaglio, che con quei prezzi non hanno quasi più nessun riferimento in comune. Perché il prezzo della pietra venduta al dettaglio ai risparmiatori italiani valeva tra il 30 e il 40% del costo finale pagato, come dice l'antitrust e come sul Sole 24 Ore abbiamo scritto già il 30 settembre. Quindi c'era una sorta di sopravvalutazione, ma il problema, come segnali tu, è che questo non era, queste rilevazioni non derivavano da uno scambio, un mercato dove appunto circolavano liberamente tra gli acquirenti e i venditori, ma invece era una sorta sorta di listino autoprodotto, cioè esatto. Era la stessa, la stessa società IDD che fissava il valore, quindi si può immaginare in modo probabilmente arbitrario, e fissava il valore di questi diamanti. Il valore che tra l'altro era costantemente in crescita da una dozzina di anni. E su questo anche l'antitrust scrive delle cose che sono molto rilevanti, considerato facciamocele che dire direttamente da loro, considerato se che c'è anche un'inchiesta della magistratura per truffa infatti. In corso. Giovanni Calabrò, direttore generale tutela dei consumatori dell'autorità garante del mercato e della concorrenza. Buongiorno dottor Calabrò, grazie. Buongiorno a lei e agli altri in studio. Da dove vuole partire? Ma guardi, io ripercorrerei velocissimamente un po' come nasce la vicenda. La vicenda, come avete detto, nasce da alcune segnalazioni di associazioni consumatori, ma nasce anche, è inutile nasconderlo, da una trasmissione televisiva che ha posto un po' l'attenzione di tutti su questa vicenda. Però dovete leggere anche un po' il Sole 24 Ore, perché magari vi potevate così... No, il Sole 24 Ore va letto sempre e comunque già al mattino io ascolto Mauro così Meazza, la facevate prima l'osservazione. Mi dà le anteprime religiosamente sulle 24 ore, sì, ma da tanti anni, e poi anche la fede calcistica condividiamo. Ma a parte questo aspetto che è privato, dal punto di vista più generale c'è stata una collaborazione, cosa diciamo che c'è sempre, ma c'è stata anche in questo caso preliminare un po' con le altre autorità, Consum, Banca d'Italia, nel senso cioè che ognuno ha verificato i profili di eventuale interesse. E per farla breve, l'autorità, come sapete, a gennaio ha avviato due procedimenti istruttori di recente conclusi e avete ricordato l'esito di questi procedimenti, che quindi non ripercorro. Aggiungerei solo che voi avete richiamato anche l'iniziativa della Procura. In comune con l'iniziativa della Procura sicuramente ci sono state le nostre verifiche ispettive svolte alla Guardia di Finanza, dal nucleo antitrust che con noi collabora, quindi in pratica c'è stato un set informativo completo di cui abbiamo potuto disporre nell'ambito di questa istruttoria. Ecco, ma dottor Calabrò, che comportamento avete rilevato nell'operato e delle società? La motivazione della misura qual è? È una pratica commerciale scorretta, perché noi di questo ci occupiamo in materia di tutela del consumatore, sia ingannevole che omissiva, quindi l'opacità, come è stata da voi brillantemente sintetizzata, nella prospettazione e nella vendita dei diamanti da parte dei due operatori interessati tramite con l'assistenza presso gli sportelli bancari delle banche coinvolte, che sono alcune delle principali banche italiane, che pure abbiamo sanzionato per il ruolo attivo che hanno avuto nella vicenda. Che cosa accadeva in pratica sostanzialmente? Che contrariamente forse a qualche elemento che è stato prospettato di recente, le banche non avevano un ruolo passivo, perché ovviamente la clientela era la clientela bancaria con certe caratteristiche, e dalle evidenze ispettive che sono comunque nei provvedimenti che sono pubblici emerge chiaramente come ci fosse un coinvolgimento della banca nella fase preliminare, quella in cui veniva prospettato al cliente questa ipotesi di investimento / acquisto di diamante. Premesso che non parliamo di un servizio finanziario, questo l'ha chiarito la Consob, no, con i suoi interventi, qui non c'è un obbligo di prospetto e non c'è un obbligo di riacquisto, veniva prospettato come investimento la mera vendita di diamanti a prezzi fissati ovviamente al venditore come in qualunque mercato, che però venivano prospettati come una quotazione che si diceva poi pubblicata, no, sui principali giornali economici, non solo Sole 24 Ore, ma c'era anche un altro, ma non facciamo troppa pubblicità, e comunque era una quotazione ad avviso dei venditori che avrebbe garantito l'acquirente sulla bontà del prezzo al quale egli acquistava. E poi veniva anche prospettata una possibilità di rivendita del bene. In realtà, come è stato chiarito nell'ambito del procedimento e anche nell'ambito di tutte le altre verifiche che sono state effettuate, stiamo parlando dell'acquisto di un bene diamante, di alcuni servizi collaterali, assicurativi, custodie ed altro, che ovviamente incidono relativamente sulla rilevanza, diciamo, dell'operazione economica, e tutto questo veniva poi prospettato come un qualcosa di sicuro, di garantito, un po' anche affidandosi sulla fiducia che tutti noi abbiamo quando facciamo questo acquisto in banca. Certo. Quindi non era un investimento, ma veniva prospettato quasi come se lo fosse. Allo stesso modo, anche perché avrete visto dagli atti che avete diligentemente verificato, perché sono pubblici, esatto, che si individuava la clientela, un certo tipo di clientela per le banche, si individuava anche un limite patrimoniale, 5 massimo 10% del patrimonio. Esatto, per fortuna. Quindi, però insomma ci sono persone che hanno investito degli importi non trascurabili, anche allora, 40-50 mila euro, quindi per fortuna loro significa che avevano complessivamente... Abbiamo il caso di una disabile... Che ci ha scritto, alla quale fu prospettato questo investimento come sicuro in un momento di difficoltà dei mercati finanziari, che ha investito in diamanti l'intero risarcimento dell'incidente che l'ha costretta su una sedia a rotelle. Chiusa parentesi, ecco, diciamo. Allora... questa è l'eccezione sicuramente, certo. Ed è un'eccezione negativa, però diciamo la cautela delle banche sarebbe stata, da quelle che sono ovviamente le evidenze che noi abbiamo, non possiamo pensare di poter ovviamente rappresentare tutti i casi, il caso rappresentato è un caso limite e molto grave, una diciamo cautela nel senso individuare soggetti che avevano certe disponibilità bancarie che sono descritte nei provvedimenti, insomma almeno 100.000 euro o quello che fosse il dato, e comunque un investimento pari a un massimo del 5-10% del patrimonio detenuto presso quel singolo istituto di credito. Ecco, dobbiamo dire una cosa, dottor Calabrò, anzi due. La prima è, ci hanno scritto già molti ascoltatori, ci hanno mandato email, ci hanno segnalato il loro caso. Voglio sapere i nomi delle banche, che non le diremo, sono quattro, sono su tutti i giornali, per cui sono quattro molto grandi, per cui non è un segreto di Pulcinella. Sono quattro delle principali banche italiane, sono le prime quattro, quindi non diciamo quali sono, ma sono le prime quattro. Unicredit, Banca Intesa San Paolo, Monte dei Paschi e Banca BPM. Ecco, così non facciamo sconti ad alcuno. Volevo dire due cose appunto, l'una, ci hanno scritto molti ascoltatori, se anche voi volete segnalarci casi eccetera, i numeri sono quelli abituali per intervenire in diretta, 800 24 00 24, e se invece volete mandarci un sms o un messaggio su WhatsApp, che adesso funziona, esatto, così diamo anche un'informazione di servizio, 349 sì. E il numero è sempre quello, 349 238 6666, volendo anche abbiamo una casella postale di posta elettronica, 2 di denari@radio24.it. Allora, no, quello che mi piaceva segnalare, Mauro, è che le banche, sulla scia di quanto sta accadendo, stanno adottando al momento delle soluzioni, dei comportamenti, dei momenti di vicinanza ai clienti differenti. Nicola ha una faccia un po' perplessa. Allora, ieri noi abbiamo interpellato, per esempio, Intesa San Paolo, perché siccome sappiamo che stanno richiamando tutti i clienti e ricomprando tutti i diamanti, e loro mi hanno spiegato che hanno chiuso tutte le posizioni, non tutte, mi hanno detto che ci sono delle richieste in stand by, in fase di valutazione, in numero esiguo, che sono pervenute nell'ultimo mese, quindi non hanno completato. Le altre sono un po' più indietro. Tu non ci credi? Ma io ho dati diversi, ho delle posizioni scritte nere su bianco. Ho dati diversi, nel senso che mi risulta attraverso associazioni di consumatori coinvolte nella vicenda come ADUC, che siano pochissimi i casi di persone che in questo momento sono riuscite a rivendere alla banca i diamanti acquistati dai broker IDB e DPI. Più che una rivendita è un'azione, diciamo, di venire incontro, esatto, ai clienti, di restituzione di e questo denaro. Forse indennizzo. Anche la motivazione. La motivazione è che attraverso questo canale bancario, negli ultimi 10 anni, secondo i calcoli nostri, sono stati piazzati ai risparmiatori diamanti per oltre 2 miliardi di euro. Le banche hanno ricevuto una commissione, certo, variabile tra il 5 e il 15, in alcuni casi 20% del valore delle pietre che sono state collocate. È chiaro che a fronte di una commissione di questo genere andare a, come dire, saldare 2 miliardi di euro di controvalore, cioè, non è che sia proprio una, non è proprio una passeggiata di salute per i bilanci bancari, ecco. C'è un'altra cosa che volevo dire a proposito di quanto ci ha spiegato il dottor Calabrò. Le banche facevano cenno a quotazioni pubblicate sui principali quotidiani economici, esatto, tra cui il nostro, il Sole, esatto, 24 Ore. Allora, qua me lo fai scatenare un'altra volta. No, l'altra volta mi ha fatto passare un brutto quarto d'ora in diretta. No, su questo passaggio. Vorrei precisare una cosa e chiedo anche il conforto di Nicola. Allora, quelle tabelle che vengono pubblicate sul Sole 24 Ore nelle pagine di Finanza e Mercati, che vanno lette sempre avidamente, cara Deborah. Quelle avidamente, quelle di norme e tributi religiosamente. In preghiera. Allora, quelle tabelle che noi pubblichiamo sono delle tabelle che provengono da mercati veri e propri, cioè dove c'è uno scambio di domanda, di offerta, e quindi si fissa un prezzo sulla base di quant'è la richiesta, a quanto uno è disposto a vendere. Soprattutto un prezzo verificato da un'autorità terza, ad esempio da borsa. Ad esempio. Invece ci sono però dei casi in cui potete trovare nelle pagine del Sole 24 Ore, in qualche altra pagina ad esempio, delle quotazioni che sono però informazioni pubblicitarie. Allora, lo riconoscete perché sta scritto proprio informazione pubblicitaria. Ecco, diciamo una cosa, Mauro, vorrei spiegarla, visto che c'è presente il dottor Calabro, che questa cosa sicuramente l'ha fatta inserire nelle due relazioni sui due broker, perché l'abbiamo vista anche lì. Queste tabelle prodotte da questi signori non sono fonte Sole 24 Ore, non c'è alcuna nostra garanzia sull'autenticità dei dati, sono informazioni pubblicitarie che erano inserite in pagine pubblicitarie di questi signori, che poi sono state ritagliate da questi signori di questi due broker, da queste pagine pubblicitarie, piazzate sui loro siti con sopra la testata Il Sole 24 Ore, le trovate ancora sui loro siti, come se fossero informazioni fatte da noi. Come scrive l'antitrust, che su questo è stata molto lineare, è stata utilizzata la credibilità del Sole 24 Ore in maniera surrettizia per validare attraverso la nostra testata delle cifre autoprodotte sulle quali noi non abbiamo mai dato alcuna garanzia. E vi aggiungo un dettaglio: il sottoscritto, quando venne a conoscenza di questi comportamenti, scrisse più email al nostro ufficio legale, che subito le fece proprie, per far togliere questa pubblicità dalle informazioni passate da noi, tant'è vero che alcuni di questi broker passarono ad altre testate economiche. È stato poi scritto dai nostri uffici legali a questi signori dicendo di smettere di utilizzare questa pratica commerciale perché metteva in gioco la nostra credibilità a validazione di un dato che invece era totalmente loro e autoprodotto da loro. Ecco, giustamente Nicola si altera un pochino anche nel segnalarlo, perché è una cosa che, come potete capire, per chi fa il nostro lavoro è abbastanza seccante. Ecco, trovarsi... Ma ripeto, lo riconosce la stessa antitrust, che l'ha scritto su entrambe le relazioni con cui ha sanzionato i broker. Nicola Borzi faceva accenno anche alle associazioni dei consumatori. Esatto. Vogliamo chiamarli in causa? Ma sai perché li chiamiamo in causa? Perché a febbraio due grandi associazioni dei consumatori hanno firmato con i due broker al centro di questa vicenda una sorta di accordo, un protocollo, un tavolo dal quale sarebbero dovute venire fuori appunto proprio delle indicazioni da rivolgere ai consumatori in questo investimento. E poi però nei mesi non abbiamo più saputo molto altro, e allora chiediamo un po' come hanno appreso anche la notizia di questa multa inflitta dall'antitrust a tutti gli attori chiamati in causa in questa vicenda. Buongiorno all'avvocato Francesco Luongo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Buongiorno a tutti. Ce l'aveva annunciato proprio ai nostri microfoni, io nei mesi passati conducevo un'altra trasmissione, ma poco cambia, e ci avevate proprio raccontato di questo tavolo di confronto per sviluppare progetti, leggo testualmente, a favore dei consumatori interessati, a forme per mettere al riparo parte dei propri risparmi. Noi vorremmo che ovviamente li mettessero da parte, mettessero al riparo tutti i loro risparmi, ma insomma poi non abbiamo avuto più molte notizie rispetto all'evoluzione di questo tavolo. Non ce l'avete raccontate, siete andati avanti, avvocato Luongo, com'è andata? Bene, allora sì, ricordiamoci, facciamo una breve premessa, che appunto insieme al Codacons ci siamo impegnati tantissimo su questo fronte da febbraio, tant'è che ne abbiamo parlato in una precedente trasmissione. Nel frattempo l'autorità antitrust ha svolto il suo ruolo egregiamente, d'intesa anche con la Consob. Da dire che se fino al 2014 non c'era questa grande attività di vendita di diamanti tra virgolette da investimento, ricordiamo il buco nero assoluto, se parliamo di opacità abbiamo ante 2014 un buco nero assoluto che è quello della vendita diretta. Quindi prima proposta, quella che faremo a Banca Italia ma anche alle altre autorità, alla Consob e anche all'antitrust, di attivare subito un registro per gli operatori professionali. Sì, però avvocato, capisco tutto il preambolo, voi avete firmato un accordo con i due broker. Sì, vengo subito, non con i broker, subito, con le due società. Vengo subito al punto, c'è questo protocollo, nel frattempo abbiamo contattato le banche che invece in una prima fase erano disinteressate a questa inchiesta, come se non gli appartenesse. Abbiamo avuto contatti con Unicredit, abbiamo avuto contatti con Intesa, Banco Popolare ci ha risposto che era tutto ok, quando per noi non era tutto ok, Monte dei Paschi di Siena non ci ha neppure risposto. Ed è per questo che abbiamo atteso il provvedimento dell'antitrust, all'interno del quale le due aziende che commercializzano i diamanti hanno già fatto una serie di proposte in parte concordate con noi. Con il provvedimento, all'esito di questo provvedimento, finalmente speriamo di poter far sedere al tavolo le banche per capire insieme come attivare le migliori soluzioni per gli investitori che hanno acquistato. Perché per voi il problema sono le banche che hanno distribuito i prodotti, non anche le modalità di stabilire le quotazioni delle società che li hanno venduti attraverso le banche? Assolutamente no, l'autorità antitrust, c'è stato appunto questa ingannevolezza nella prospettazione del valore del diamante. Il punto adesso qual è? Che ci sono 120.000 risparmiatori che devono essere messi in grado di decidere cosa fare, se rivendere, e ricordiamo che non c'è un mercato secondario dei diamanti, oppure essere rimborsati della quota di differenza rispetto al valore effettivo della pietra, che però dobbiamo andare a stabilire con una perizia, con una, diciamo, una fonte, uno studio che sia certo, oppure quelli che vogliono rivendere direttamente, certo. Ricordando però che ci sono anche delle commissioni di rivendita che vengono incassate dalle banche, che arrivano anche al 16%, però, quindi anche questo è un problema. Aspettate un attimo, allora è un passaggio delicato, quindi sì, allora facciamo così, Deborah, ti propongo questo, sì. Fermiamoci un istante, guardiamo come stanno andando i mercati, diciamolo, raccontiamolo ai nostri ascoltatori. Voi potete continuare perché stiamo a chiamarci, stuzzicando tanti stamattina, a scriverci il tema. Come capite è abbastanza complesso, perché coinvolge sia il ruolo che hanno avuto queste due società, il ruolo che hanno avuto le banche, e adesso qual è anche la possibilità per quei risparmiatori che sono incappati in questo acquisto e oggi hanno il problema di rientrare. Che cosa possono fare, quali strumenti possono attivare. Allora, tutto questo dopo la pubblicità e le informazioni sui mercati. I numeri sono quelli abituali anche durante questo stacco, 800 24 0024, oppure 349 238 6666 per gli sms e i whatsapp. Adesso, Deborah, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta di denari. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Fa impazzire questa versione inedita di Nicola Borzi che se la canticchia. Che, sì, sì, che danza anche, l'avranno apprezzato i nostri ascoltatori che ci seguono su Facebook. Le ascoltatrici, che ne sai. Anche le ascoltatrici, no, certo, non volevo Beh, essere... c'era anche quella canzone che diceva Diamonds are forever, e noi pensiamo, speriamo che sola will no. be not forever. Dice sì, effettivamente un diamante per sempre è quello che stiamo dicendo, ma scusate, questa mattina. Ma per uno che li ha comprati, che non è stato spaventato dalla situazione di cui parliamo in questi giorni, che se li vuole tenere magari dice li vado a rivendere fra due anni, ma questa persona è proprio completamente da... da biasimare? Esatto. No, non è da biasimare, cioè, esatto, però come perché adesso fatto sembra vedere... che noi stiamo parlando di una cosa dalla quale tutti devono scappare. Vorrei fare anche un po' il grillo parlante da un'altra parte. Allora, se no sembra che sia allora come abbiamo fatto vedere con i grafici pubblicati il 30 settembre sul Sole 24 Ore, le quotazioni di questi signori sono andate crescendo in maniera lineare su più lustri, più di 12 anni, mentre in realtà le quotazioni di mercato oscillano, crescono e salgono e vanno giù in funzione della domanda, dell'offerta, dell'andamento anche dei mercati finanziari, perché ci sono fenomeni di correlazione o decorrelazione. Il problema è che queste quotazioni lineari in crescita staccano ormai di 2-3 volte il valore di mercato di pietre della stessa qualità, stessa purezza, stessa brillantezza, stesse caratteristiche, per cui rivenderle, sì, certo, se trovi chi te le ricompra, ma a un prezzo che è estremamente perché inferiore. Perché è come se uno avesse comprato una casa nel pieno del boom immobiliare di qualche anno fa, no? adesso il mercato scende, uno si spaventa perché c'è la casa dove sto, vale molto meno di quando l'ho comprata, e quindi però puoi rimanere seduto, puoi rimanere a vivere lì dentro. Sì, senza... solo che la casa ha un valore d'uso, il diamante. No, vabbè, ho fatto solamente un parallelo estremo, no, per dire che non è che adesso tutti quanti devono riportare in banca il diamante diciamo per rivenderlo. Diciamo, Deborah, che qui la vendita da panico, come si dice all'inglese, il panic selling, poi non aiuta. No. Cioè, ma è quello che ha fatto saltare lo schema. E che in questo caso però ha fatto saltare lo schema. Allora abbiamo diverse telefonate. Bravo, andiamo, abbiamo va, ancora sì. l'avvocato Calabro che vuole fare, il direttore Calabro che vuole fare una battuta. Mm-hmm. Ci dica, Calabro, la parte dell'antitrust. Sì. Sì, solo per dire, in relazione agli ultimi interventi anche delle associazioni dei consumatori, che per quello che riguarda noi stiamo aspettando la relazione delle imprese, che entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, quindi entro Natale, ci faranno sapere poi concretamente che cosa hanno fatto, anche per ottemperare alla parte dispositiva, no, della nostra delibera, che non è solo di applicazione, di irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, ma anche invita le imprese appunto a rendere edotta l'antitrust, e quindi poi l'antitrust informerà ovviamente nella valutazione successiva, con esito finale, un po' tutti i consumatori, di cosa viene fatto. Quindi siamo fiduciosi che in questi due mesi si trovino le soluzioni adatte, anche perché tutto vogliamo evitare, tranne ovviamente un panic selling. È un mercato di una certa dimensione che finora, sia pure all'interno di un circuito chiuso, ha trovato un suo equilibrio. Noi abbiamo evidenziato alcune condotte, a nostro avviso, diciamo, non corrette, come pratiche commerciali scorrette. Attendiamo sempre poi il giudizio, che ci sarà sicuramente il giudice amministrativo, alle quali le imprese hanno già detto e faranno ricorso, e in ogni caso aspettiamo fiduciosi le relazioni di Natale delle imprese. Vorrei però, mi permetto di dire una cosa al rappresentante dell'antitrust. Faccio presente che il primo operatore nazionale, IDB, ha a bilancio pietre in deposito da parte dei risparmiatori per oltre 600 milioni di euro, a fronte di un patrimonio in questo momento sicuramente inferiore a 600 milioni, anche perché i frutti, i proventi della vendita dei diamanti sono stati distribuiti ad esempio agli azionisti sotto forma di altissimi dividendi negli ultimi anni. Quindi c'è da domandarsi se tutti dovessero chiedere il rimborso di quanto hanno pagato oltre le quote di mercato. Infatti una delle questioni che alcune associazioni dei consumatori come ADUC segnalano è quella di non lasciare le pietre in deposito presso i broker, perché in caso, come noi non ci auguriamo, di un'eventuale procedura concorsuale, i termini per la rivendita di queste pietre potrebbero prolungarsi per anni. Allora, detto questo, sentiamo qualche ascoltatore che ci ha telefonato, ci avete chiamato in tanti. Diamo la linea ad Angelo, la provincia di Latina. Buongiorno Angelo, ci dica. Sì, buongiorno. Sono intervenuto per dire, perché io circa un anno ho investito una somma di circa 30.000 euro tramite Banca Unicredit con Intermarket Diamond Business. E dopo le ultime, diciamo, trasmissioni o comunque notizie che si sentono, diciamo, su questa situazione, volevo sapere eventualmente come mi dovrò comportare, perché a me poi la banca disse che comunque è un investimento che bisogna lasciare almeno un 5-7 anni, insomma, diciamo, per far comunque maturare o devi dare anche penalità, diciamo, in uscita. Ecco, e voglio sapere, insomma, ecco, diciamo, come comportarmi, se continuare a stare tranquillo, lasciare l'investimento eccetera, oppure bisogna intervenire in lei qualche ha già modo. Chiesto Massimo per Angelo. Sì, eventualmente la procedura di disinvestimento, stuzzicato da quello che sta ancora sentendo ancora. Eventualmente no, perché poi diciamo, dopo l'ultima trasmissione dell'altra sera, e sapevo che oggi voi avevate anche questa trasmissione, insomma, volevo avere un attimo una panoramica, diciamo, della sulla questione, insomma, ecco. Ecco, come avete sentito, ci sono anche delle commissioni quando si esce, ma di questo appunto ci ha chiamato per parlare di questo Massimo dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Massimo. Buongiorno a voi. Ci dica Massimo, lei è un ex consulente bancario, giusto? Sì, esatto, facevo parte di un consulente per una delle quattro banche. Ecco. Sì, la sentiamo male Massimo, se si avvicina. Pronto? Al telefono, sì, grazie. Pronto, mi sentite meglio? Sì, grazie. Sì, niente, io facevo parte, ero consulente di una delle quattro banche e confermo che la commissione di retrocessione nella vendita come consulenza di investimento nei diamanti era tra il 18-19%. Quindi... per cui in qualche caso anche dall'alto arrivava per far quadrare i budget mensili semestrali un input a distribuire, a suggerire questo investimento. Grazie. Il problema è che non era evidenziata nelle offerte al cliente, come scrive l'antitrust, così come non era evidenziato il fatto che c'era un'imposta, in alcuni casi era evidenziata, in altri no, l'IVA del 22%, così come non era evidenziato il prezzo reale della pietra per i broker, e non erano evidenziate ad esempio le commissioni di assicurazione o quant'altro. Attenzione, non è una commissione di uscita quella che si paga se si intende chiedere il servizio di rivendita, è una commissione proprio per utilizzare il servizio di ricollocamento della pietra che veniva offerto ai clienti. Significa che se tu volevi uscire il primo anno pagavi magari il 12, il 13% del valore, però... e poi la commissione scendeva fino al settimo anno o l'ottavo, quando si azzerava. Era un modo per tenere la gente dentro lo schema. Come i caricamenti delle assicurazioni, vabbè, certo. Insomma, è una pratica, ecco, anche abbastanza. Io vorrei fare un passaggio ulteriore con Nicola Borzi. Noi siamo adesso come investitori quasi un po' viziati dalle informazioni, poi magari non leggiamo i prospetti che ci vengono consegnati, ma siamo abituati ad avere delle informazioni molto puntuali, quanto è il rendimento, non sono chiarissime, lo abbiamo detto tante volte anche qui a Due Denari e lo scrivi sempre su Plus, però queste informazioni sono disponibili. Perché in questo caso dei sui diamanti tu continui a segnalarci che mancavano questo tipo di alert, di informazione al perché, consumatore? Perché in base a una comunicazione Consob di alcuni anni fa, se mancano due elementi in un contratto finanziario come la promessa di rendimento o un patto esplicito di riacquisto, questo investimento non può essere considerato investimento finanziario. Dunque non ha innanzitutto un prospetto, quindi mancano tutta una serie di informazioni precontrattuali che hanno gli investimenti finanziari, ma soprattutto nessuno poteva vigilare, perché questo mercato, chiamiamolo mercato anche se mercato non è, sfuggiva ai controlli sia della Consob che della Banca d'Italia. Cosa significa? Significa che sostanzialmente nessuno controllava a causa di questo vuoto legislativo. È per questo che da 3 anni noi di Plus 24 chiediamo ai legislatori una legge per questo comparto che sia parallela a quella che è stata varata qualche anno fa, a quella dell'oro, certo, da investimento. Allora, intanto sulle procedure che potrebbero teoricamente adottare in questo momento i sottoscrittori, malcapitati sottoscrittori di queste forme di investimento che adesso non riescono tanto a ragionare con la banca per poter rientrare nella piena titolarità di questo denaro, c'è l'amica Luisa Crisi Giovanni di Altro Consumo che ci segnala sul nostro sito: trovate un modello di lettera per far valere i vostri diritti per inadempienza delle banche ed ingannevolezza, appunto, che sono le due questioni sanzionate dall'antitrust, quindi abbiamo anche questo canale. Poi dobbiamo far completare anche il ragionamento all'avvocato Francesco Luongo. Tutto questo avverrà naturalmente dopo le informazioni sul traffico. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta Due di Denari. Eccoci qua con i nostri diamanti, la pietra dello scandalo, mi verrebbe da dire. A pensare anche che come pezzo ci stava bene pure Shine on Your Crazy Diamond dei Pink Floyd. Esatto, vabbè. Allora, ci ha chiamato un operatore proprio del settore, Marco da Milano. Buongiorno Marco, ci dica. Sì, salve, salve, buongiorno. Ecco, lei... ci sono molte cose da dire. Allora, le banche non sono operatori qualificati. Le banche fanno i loro interessi, quindi non sono operatori qualificati. Ecco, però qualificati sono, ecco, i negozianti, per esempio. Si qualifichi lei però, Marco, se no non capiamo la portata del suo rilievo. Cioè, lei è allora, un membro... Io sono membro della Borsa Diamanti d'Anversa. Lavoro per una società di Anversa e vendo diamanti sul territorio nazionale alle fabbriche di Valenza, Vicenza, Arezzo, sì, e chi produce gioielli. Benissimo, ecco, in questo senso abbiamo detto un operatore del settore. Ma ritiene che questa vicenda vada a turbare un po' la vostra reputazione, Marco? Danneggiato? La nostra assolutamente no. Io ho dato a clienti pietre da un carato e mezzo, certificate, che hanno venduto e senza nessun problema, per cui non c'è alcun problema. Sì, insomma. Va bene, Marco, se può sintetizzare gentilmente, quindi il tema è che bisogna fare un investimento presso operatori specializzati in questo campo, diciamo che... vabbè, sì. Questa è la stessa cosa che dice Federpreziosi, ad esempio, che sostiene che c'è una violazione delle leggi di pubblica sicurezza sulla vendita di beni preziosi, perché nelle leggi di pubblica sicurezza c'è scritto che i diamanti dovrebbero essere venduti insieme a loro soltanto dalle gioiellerie, dai banchi metalli e da chi è autorizzato. C'è da dire una cosa, molti hanno segnalato questo aspetto, che era possibile andare direttamente e rivolgersi a dei rivenditori autorizzati. Le banche in realtà si sono sempre difese, e dal punto di vista legale questa osservazione è valida, dicendo che loro effettuavano un puro servizio di tramitazione dell'ordine, cioè la tramitazione, esatto, anche questa me la segno. Mettevano in contatto i clienti interessati con il personale dei due broker che andava allo sportello a presentare l'offerta. In realtà, come li vela l'antitrust, hanno fatto un po' più di questo. Allora c'è Bianca da Ferrara. Buongiorno Bianca, ci dica. Buongiorno, senta, volevo segnalare, oltre alle quattro banche che voi avete già segnalato, sì, io da Ferrara sono stata ossessionata per questo famoso acquisto di diamanti come unica cosa sicura in quel momento dalla Caricento di Ferrara, solo questo volevo dirvi. Grazie, ma Bianca. Le ha presi Bianca? Ma neanche per sogno. No, perché questo volevo farvi raccontare. No, la cosa assolutamente lei non mi interessava. Esatto. Però molte volte hanno continuato a insistere su questo e direi di sì. Ed infatti, era la mia banca, capito? No, esatto. Allora, queste quattro sono state sanzionate, ma ce ne sono anche altre. Ce ne sono moltissime altre. Basta andare sui siti online di questi due broker per vedere che sono decine le banche coinvolte, tra BCC, banche popolari, banche del territorio, SPA private. C'è anche da dire un'altra cosa, che non ci sono solo questi due broker, ma proprio per questo vuoto normativo negli anni sono spuntati come funghi quantità di broker che hanno tutti, va detto, politiche commerciali diverse, per cui alcune di queste politiche commerciali eventualmente assomigliano a queste di questi due broker e potrebbero essere, come dire, omissive o sanzionabili, forse, sì. Altri potrebbero aver utilizzato delle politiche commerciali diverse, ad esempio potrebbero non avere proposto il servizio di rivendita dei diamanti, certo, o altre cose che sono state poi sanzionate. Io vorrei dare un'ultima battuta all'avvocato, sì, Luongo, che doveva completare appunto allora l'impegno del Movimento Difesa del Cittadino e delle altre associazioni consumatori. Abbiamo capito, l'abbiamo sentito dal direttore dell'antitrust, entro Natale capiremo come si articoleranno le reazioni dei vari operatori coinvolti. Hanno già annunciato quasi tutti i ricorsi al TAR, esatto, rispetto alla sanzione dell'antitrust. Le sì. associazioni, cioè voi ad esempio, come vi state muovendo come Movimento Difesa del Cittadino? Allora, come dicevo, innanzitutto solleciteremo Banca Italia e Consob ad attivarsi per colmare questo vuoto normativo che esiste e quindi a creare questo registro degli operatori professionali. Così vedremo appunto chi è autorizzato, con quali presupposti. Per quanto riguarda la situazione è ben registrata nei due provvedimenti dell'antitrust da cui dobbiamo partire. Il dottor Calabro ha anche chiarito come entro 60 giorni dovremo andare a capire come si muoveranno gli operatori e le banche interessate. Quindi da un lato ci sarà probabilmente un ricorso al TAR che andrà poi a bloccare ogni ipotesi di class action. Ci sono vari giudizi civili già avviati davanti ai tribunali. Dal punto di vista del Movimento Difesa del Cittadino abbiamo la necessità a questo punto di attivare il tavolo con finalmente il coinvolgimento delle banche per avere cosa? Innanzitutto da subito quotazioni chiare sia per coloro che già sono in possesso dei diamanti, che li hanno già acquistati, sia per coloro che eventualmente volessero acquistarli in futuro. Quindi quotazioni chiare, un indice chiaro, maggiore trasparenza e chiarezza per quanto riguarda l'offerta, quindi, ma anche la contrattualistica in essere e soprattutto l'attivazione di una procedura di conciliazione con le banche e le società interessate per assistere tutti quei risparmiatori che, ripeto, assistere e dare informazioni a tutti quei risparmiatori che intendono rivendere oppure che intendono conservare il bene, oppure che semplicemente vogliono avere informazioni su questo. No, tanto sul tema della conservazione, volevo solo chiudere dicendo che c'è un'ascoltatrice che ci ha scritto: io li ho comprati per le mie nipotine, immaginando di fare un lavoro di ovviamente nobile. Esatto, infatti, per cui magari queste persone le vogliono conservare perché fra 20 anni queste ragazze li porteranno appesi al collo e avranno altre finalità. Esatto. Speriamo di avere brava questa nonna. Speriamo di avere una norma, come giustamente abbiamo ricordato prima, come ha segnalato anche l'Associazione dei Consumatori, l'avvocato Luongo. Ci chiedono, qualcuno ci scrive: beh, però voi potevate avvisare i lettori che quelle erano pubblicità. Sì, effettivamente, Nicola Borzi e altri colleghi l'hanno scritto da 3 anni proprio sul giornale. Abbiamo parlato da 3 anni del fatto che i prezzi erano autoprodotti. Pubblicavamo grafici dove dimostravamo che non c'era correlazione tra i prezzi autoprodotti e i principali listini mondiali. Ripeto, Rapa portò all'ingrosso, IDEX al dettaglio. No, Nicola, guarda, mi viene da dire a questo punto: domani c'è Plus in edicola con il Sole 24 Ore. Con un bel commento su avidamente. Questo. Avidamente. Tra quale sarà il titolo principale? Il titolo principale riguarda le pensioni. Si fa un gran parlare in questi giorni del problema legato all'età pensionabile, agli strumenti per accedere eventualmente in anticipo alla pensione, alle fasce sociali che fanno lavori usuranti. Abbiamo dedicato la nostra copertina al tema della pensione complementare, andando a fare un'analisi sugli strumenti a disposizione per farsi una pensione di scorta e sui rendimenti a 10 anni dalla riforma dei fondi di settore, quanto hanno reso, se hanno battuto meno il TFR, linea per linea, comparto per comparto, andando a vedere chi ha reso di più e chi ha reso di meno del trattamento di fine rapporto, la cosiddetta liquidazione lasciata in azienda. Tra l'altro, nella miglior tradizione di Radio 24, che va sempre a caccia di storie infinite, anche questa potrebbe essere la prossima, la settimana decisiva per lancio dell'ape volontario. Noi ci siamo, vediamo, è presto. Allora, è il mio momento, Debora. È il tuo momento, vai. C'è imposta per te. Guarda, cara Debora, cercavo qualcosa in linea con la ricorrenza della settimana, perché abbiamo appunto, è stato il 2 novembre ieri, e allora, come sapete, celebriamo e ricordiamo i defunti. Devi sapere che il fisco ti guarda anche dopo la tua dipartita. Che branco di guardoni che ci sono in quegli ambienti tra l'IVA e l'IVA. Ti viene a cercare e non è sempre facile capirlo. Allora, che succede? Ad esempio, un gruppo di commercialisti, la Fondazione Commercialisti Italiani, ha segnalato una cosuccia. Mettiamo che tu erediti da un parente e il decuius però aveva dei debiti fiscali. E quindi io posso esercitare il mio diritto alla rinuncia all'eredità, giusto? Questa sarebbe la cosa più sana. Ma mettiamo che tu non lo sappia. Come fai a sapere se il decuius aveva o non aveva debiti fiscali? È un pasticcetto. Devi andare ufficio per ufficio. Poniamo, tu provieni dalle Marche, ma ora lavori a Milano. Allora dovresti tornare nel tuo luogo d'origine, chiedere del suo ufficio e da lì farti dire se lui aveva dei debiti. Allora, se no ti arriverà anni dopo la cartella. Facciamo una cosa, è talmente carina che te la faccio raccontare per bene bene bene la settimana prossima, perché qua c'era un caso concreto di una signora che le è capitata una vicenda di questo tipo. Come ho visto io in una sentenza. Dobbiamo chiudere, chiacchieroni a microfoni spenti. Ci sentiamo lunedì, io non ci sarò, ma vi tiene compagnia lunedì e martedì Mauro Meazza. Buon weekend a tutti.